Del terrorismo, a pensarci bene, si potrebbe dire quello che è stato detto con Vincenzo parlando del Padre Eterno, che se non esistesse bisognerebbe inventarlo. Bisognerebbe si intendere l'interesse esclusivo del dibattito politico che, orbo di quell'argomento, incontrerebbe non poche difficoltà a focalizzarsi su qualcosa d'altro. In Italia, con tutti i problemi che ci sono, non si parla d'altro da almeno 30 anni. Anche di recente, lo avete notato, è bastato l'arresto di un certo numero di individui, personaggi inquietanti, certo, e responsabili di azioni nefande, forse, si vedrà al processo se ci sarà, ma certamente incapaci per livello organizzativo e articolazione del discorso politico di rappresentare un vero pericolo per le istituzioni, è bastato il loro arresto per scatenare una straordinaria canea e con l'obiettivo ormai tradizionale di accollare all'opposizione politica l'unica colpa, quella della radicalità, di cui il suo patrimonio genetico è vistosamente privo. Evidentemente a certi politici nostri l'occasione sembrava troppo ghiotta per lasciarla cadere, con i risultati che si sono visti, e al momento di fatto abbiamo di fronte a noi la prospettiva di manifestare a breve tutti uniti, da Fini a Bertinotti o quasi, contro il pericolo del terrorismo, il che significa ritenere che la minaccia più grave che incombe sul paese non sia la presenza di un governo di destra fondato sugli interessi personali del suo leader e ben deciso a fare a pezzi le regole della democrazia rappresentativa e i diritti acquisiti dei lavoratori, ma una struttura eversiva armata che a onta delle sue dimensioni minimali, omeopatiche quasi, si è deciso di drammatizzare e amplificare. Il caso, va detto, non è unico. Questa settimana di terrorismo abbiamo sentito abbondantemente parlare in tutte le possibili salse. Uno degli argomenti più comunemente usati per deprecare chissà perché gli esiti del noto sondaggio dell'Eurobarometro, quello che rivelava una certa tendenza nei cittadini europei di considerare un pericolo per la pace lo Stato di Israele, che è tutto sommato un punto di vista assai ragionevole, perché è difficile essere pacifisti o semplicemente pacifici quando si occupano militarmente dei territori altrui. Uno dei punti di vista per svalutare questa posizione è stata quello per cui chi ha risposto in quel senso non aveva compreso la necessità principe cui deve far fronte Sharon poveretto, che è quella ovviamente di combattere il terrorismo. E un altro bel figuro, il presidente Putin, in visita a Roma per il vertice russo europeo, si è affrettato a scollarsi di dosso con l'abituale cinismo della responsabilità del genocidio in Cecenia, spiegando che in quell'infelice paese il suo governo è impegnato, guarda un po', in una dura lotta al terrorismo internazionale. La tesi, come noto, è stata entusiasticamente fatta propria da Berlusconi e non sarà stata una combinazione. Quello dei ceceni e dei palestinesi, d'altronde, non è l'unico caso di lotta a sfondo etnico e nazionale etichettata dai suoi nemici come una forma di terrorismo. Sappiamo tutti che qualcosa del genere è già successo nel breve arco del secolo scorso agli irlandesi, ai baschi, ai curdi, agli algerini, agli yemeniti, agli armeni e chissà quante altre rispettabilissime comunità nazionali, un po' riluttanti a sottostare a una logica internazionale che ne negava i legittimi diritti. Negli anni a cavallo della Seconda Guerra Mondiale è successo persino al movimento sionista, ma chi se ne ricorda adesso? Però sembra un po' strano che la stessa definizione derogatoria venga applicata indifferentemente a realtà tanto diverse, quali le forme estreme di lotta politica minoritaria o le attività di una serie di movimenti nazionali che, quale che sia il giudizio che se ne può dare, sono ben radicati e largamente diffusi nel proprio paese. E questo è precisamente il punto, perché quella di terrorismo in fondo non è una categoria politica, nel senso che non è una definizione che qualcuno possa pensare di applicare a se stesso, un termine discutibile finché si vuole ma dotato di una possibile valenza positiva, e l'ultimo a usare l'espressione in quel senso deve essere stato, se non mi sbaglio, il visconte Louis-Antoine Léon de Saint-Just, e non gli è andata bene. Di terrorismo oggi si accusano esclusivamente gli altri, guardandosi con molta cura dall'analizzare l'eventuale presenza in se stessi di cause oggettive che giustificano o aiutino a comprendere quella che in ogni caso è una evidente manifestazione di crisi. Si tratta insomma di un'imputazione puramente negativa, di una specie di sanatore universale a uso dei detentori del potere, la cui utilizzazione, più che descrivere o giudicare il comportamento di qualcun altro, mira a giustificare a contrario il proprio, motivandolo come necessitato dall'altrui nefandezza e riottosità. E in questo senso finisce immancabilmente con l'essere definito terrorista chiunque, ma proprio chiunque, a prescindere dalle sue motivazioni e dai suoi argomenti, s'azzardi a mettere in discussione il monopolio statale della violenza, della forza. E finché naturalmente non gli capita di vincere, che ogni tanto succede, e di essere promosso ipso facto nella categoria degli eroi. Che in nome di un fantasma tanto evanescente, di un termine così mal definito, siamo chiamati a manifestare a breve scadenza tutti, in un impeto di unità nazionale che costringerà le forze democratiche a ingoiare i moltissimi rospi che il centrodestra gli sta entusiasticamente ammannendo, è una bella prova di come proceda il dibattito democratico in questo paese, attraverso una serie di proclami che nascondono, e neanche troppo, altrettante intimidazioni e ricatti. Accettando i quali, naturalmente, si finisce con il cambiare le carte in tavola, legittimando nei fatti quello che oggi come oggi è forse l'unico e vero progetto eversivo. E certi senatori, si sa, funzionano solo per gli altri. Che sono studiati?